Allora ragazzi, ci siamo. Allora, siamo tornati in diretta dal centro sociale occupato, autogestito, Forte Prenestino, con una incredibile, impensabile diretta dagli Stati Uniti fino a 5 minuti fa. Abbiamo avuto qualche piccola difficoltà, ma ora ci siamo. Stiamo rompendo le scatole, con tutto il fuso orario compreso, a due persone dagli Stati Uniti, a Daniela e a... ricordami il tuo nome, perdonami, da Santa Barbara? Strelka. Ah, quindi, stiamo rompendo le scatole a Daniela e a Strelka. Daniela è a Chicago, Strelka è a Santa Barbara, per parlare e chiacchierare un pochettino della situazione che sta avvenendo sotto casa loro, cioè intorno a casa loro. Quindi siamo ormai a 3 settimane, se non sbaglio, dall'omicidio di George Floyd, e ci sono state settimane importantissime e interessantissime di rivolte, di manifestazioni negli Stati Uniti, diciamo così, a carattere antirazzista, penso che possiamo dire così. E volevamo chiedere a voi che siete lì sul posto qual è, diciamo, la vostra lettura, e se potete darci, diciamo così, fare un cappello introduttivo, un attimo raccontarci direttamente dal territorio che cosa è successo. A voi, Daniele. Allora, sì, come detto tu, dal 25 di maggio, cioè dalla morte di George Floyd, ci sono state dimostrazioni di dissenso in tutti e 50 gli stati, all'inizio con atti di vandalismo e poi questi atti di vandalismo si sono affievoliti, e comunque le manifestazioni continuano, almeno qui a Chicago, ormai da, appunto, dall'ultima settimana di maggio ci sono almeno 2 o 3 manifestazioni al giorno, ogni giorno. Ok, Strelka, da parte tua, dall'altra parte dello Stato, ci racconti la stessa cosa o ci sono delle differenze? In termini di partecipazione, diciamo, qui in California io sono molto vicina a Los Angeles, e a Los Angeles sicuramente la mobilitazione è ancora molto, molto forte, con svariate manifestazioni al giorno, parliamo di 6 o 7 in contemporanea. Penso che sia la stessa cosa anche più a nord, soprattutto sapete che Oakland, comunque nel nord della California, è sempre stata, diciamo, anche una delle roccaforti delle Pantere Nere, per cui comunque loro hanno una storia anche politica molto attiva già su queste questioni, quindi a Oakland, appunto, grande partecipazione. Quindi anche qui dal 25 maggio, diciamo, ci sono state una serie di proteste varie. Anche qui si sono configurate quasi subito come dei riot, con però delle distinzioni interessanti rispetto alla storia solita di Los Angeles, per cui di solito le rivolte che c'erano state finora per questioni antirazziste sono appunto nel 65 e nel 92, quella famosa per la quella che la gente ricorda come la morte di Rodney King. In realtà Rodney King non è morto in seguito all'assalto della polizia, ma si è salvato. E in maniera molto diversa da quello che è successo nel 92, direi, ci sono state una serie di, appunto, riot e atti contro la proprietà, però si sono tutti svolti all'interno dei quartieri ricchi di Los Angeles questa volta, quindi non più nei quartieri poveri come nel 92, e penso che questo un pochettino indichi come ci sia stata un'organizzazione politica fin dall'inizio all'interno di queste mobilitazione rispetto a come era andata, appunto, in precedenza. Ok, allora io diciamo sto cercando di capire un attimino, no, vorrei contestualizzare un attimino la situazione. Allora, negli Stati Uniti mi pare di capire, perché le informazioni che arrivano da qui, che arrivano qui, sono chiaramente pilotate, controllate, insomma, ne arriva giusto una parte. Mi interessava capire un po' come sia possibile, come fosse possibile essere arrivati ad una situazione del genere. Si parla ormai da settimane di un razzismo sistemico, se non proprio psicologico, e volevo chiedervi aiuto per comprendere meglio questa situazione. Cioè, c'è una comunità afroamericana, insomma, che subisce delle vessazioni particolari e sistemiche, e quindi raccontatecelo voi. Cioè, c'è un meccanismo sostanzialmente che probabilmente la società statunitense ha introiettato, e volevamo avere, ecco, qualche informazione in più direttamente dal territorio per cercare di comprenderlo, perché forse per noi è un po' in Europa più complicato da leggere, visto che non viviamo lì. Quindi parliamo di un razzismo sistematico, istituzionale, ma probabilmente ce n'è anche uno psicologico. Quindi aiutateci a comprendere questa situazione. Non so, Daniele, se vuoi cominciare tu. Guarda, sì, secondo me tu hai toccato uno dei nervi, perché la storia degli Stati Uniti è anche la storia del razzismo negli Stati Uniti, di come gli Stati Uniti sono diventati ricchi sulle spalle degli schiavi neri. Però per fartela breve, io direi che uno degli esempi più eclatanti, secondo me, è questo talk, questo discorso che i genitori neri fanno ai bambini neri. Ai bambini qui a scuola viene insegnato continuamente che se c'è un problema bisogna rivolgersi alla polizia, bisogna trovare qualcuno con un uniforme che li possa aiutare. E questa cosa funziona per i bambini bianchi, però i bambini neri subiscono anche un secondo livello, che è quello del discorso che si fa a casa, appunto, per cui quando c'è un'interazione tra un giovane nero e la polizia, il giovane nero deve rimanere calmo, deve sempre mostrare le mani, deve ubbidire ai comandi della polizia, perché la popolazione nera sa benissimo che quando si trova davanti al potere esecutivo della polizia mette a rischio la vita. E questo, come dicevi tu, crea una certa inferiorizzazione della colpa, se vuoi, oppure, detto in maniera migliore, crea la possibilità per i neri di sentirsi immediatamente colpevoli, anche se non hanno fatto niente, davanti all'autorità. E poi questo si allarga a livello di sistema, perché il nero che prima era schiavo e poi è diventato criminale una volta che è stato liberato, che è stato liberato da schiavo, poi comunque subisce delle marginalizzazioni a livello sistemico, per esempio una criminalizzazione immediata, e cioè la polizia si sente più, vede il nero come un criminale potenziale più che il bianco. In aggiunta c'è meno accesso al credito bancario per esempio per le famiglie nere, vivono in zone, ad esempio qui a Chicago, molto più disagiate, in zone che sono lontane dal centro, deteriorate, dove ci sono dei problemi a livello ambientale, magari vivono vicino alle fabbriche con i deflussi di smog che gli condizionano la vita, sono più poveri e poi hanno meno servizi, vivono in posti dove non ci sono supermercati, non ci sono ospedali, il trasporto pubblico è minore. E in questi ultimi anni, secondo me, negli ultimi 15 anni, negli Stati Uniti si sta facendo lo sforzo di smettere di pensare del razzismo come il fattore psicologico di un individuo bianco che si sente superiore a un individuo nero, e si tenta di pensare il razzismo come il risvolto sistemico del continuo, anche se trasformato, della continua, anche se trasformato, oppressione dei neri. E finalmente sembra che la popolazione bianca sia più suscettibile a questo discorso. Trecca, tu hai qualcosa da aggiungere al riguardo per la tua esperienza? Sì, io appunto, come ho detto, sto a Los Angeles, per cui in un contesto dove invece la composizione demografica è molto diversa da quella di Chicago, perché da noi, vabbè, la popolazione nera comunque sì è presente, però c'è una maggioranza latina. per cui ci sono anche una serie di altre dinamiche che si inseriscono in questo sistema. Secondo me, per capire il razzismo negli Stati Uniti è molto importante avere chiaramente questo concetto della goccia di sangue, la teoria della goccia di sangue, per cui negli Stati Uniti se tu hai una sola goccia di sangue non bianca, allora sei una persona di colore. O perlomeno questo era il modo in cui le leggi funzionavano. Adesso chiaramente, cioè, parliamo di tempi diversi, però diciamo questo concetto per cui se non sei totalmente bianco allora sei quasi impuro è una cosa che è rimasta molto nell'immaginario. Questo a me fa ridere, perché con la storia degli Stati Uniti, cioè, secondo me è anche statisticamente improbabile trovare delle persone che non abbiano nessun parente all'interno della propria famiglia che non sia al 100% discendente dagli anglosassoni che sono arrivati qui nel 600, però questo dà un pochettino la cifra di com'è il modo in cui la gente ha di solito affrontato la questione della razza. È una questione che è discussa moltissimo, perché io ti parlo dall'esperienza di essere una dottoranda in università in California, in un contesto in cui noi insegniamo la razza in università, è una cosa di cui io parlo molto nelle mie lezioni, e il tipo di, pur parlandone così tanto, il tipo di atteggiamenti che la gente ha nei confronti di questa cosa è sempre molto interessante per me. La gente diventa... I miei studenti si rifiutano di rispondere se faccio lezione parlando delle implicazioni della razza nell'uso della lingua, per esempio. E questa cosa a me ha sempre stupito, perché uno si aspetterebbe che con la storia che gli Stati Uniti hanno e la quantità di anni in cui comunque ci sono stati, nel senso, i neri negli Stati Uniti ci sono da 4 secoli. E non sono arrivati ieri, e quindi uno si aspetta una, diciamo, anche una normalità nel vedere comunque queste persone all'interno della società, e purtroppo questa normalità non c'è. Nelle università, io sto in un'università pubblica che ha quindi una serie di iniziative che sono volte attivamente a diminuire il gap che c'è tra gli studenti, il numero di studenti e professori bianchi e quelli neri. Comunque per me è strano vedere studenti neri nelle mie classi, e penso che questa cosa sia molto indicativa del tipo di situazione che si vive, del tipo di gap. E questa cosa del talk che viene dato ai bambini, io l'ho scoperta con orrore quando un mio collega nero me l'ha raccontato, che lui appunto a 12 anni ha ricevuto dai propri genitori le istruzioni su cosa fare nel caso in cui si incontrasse con la polizia. Incontri con la polizia in questo paese, secondo me, per chiunque non sia un bianco americano nativo inglese, sono paurosi, però per i miei colleghi neri, soprattutto anche queer e donne che vengono di solito dimenticati, diciamo, quando si fa il discorso della violenza della polizia contro la popolazione nera, appunto per loro è proprio traumatico. Allora, mi sembra di capire che, insomma, è proprio chiaro come la società negli Stati Uniti abbia appunto introiettato questo tipo di dinamica, e quindi mi viene proprio da chiedervi, in questi giorni, in queste settimane in cui ci sono queste manifestazioni, qual è la composizione, quali persone scendono in strada? Cioè, io da quello che vedo non vedo che non arrivano solamente persone di colore, non è solo la comunità afroamericana degli Stati Uniti che manifesta, mi sembra che stia nascendo un po' di... che ci sia una maggiore sensibilità, diciamo così, non solo dalla comunità afroamericana, però quello che volevo chiedervi è appunto questo: la composizione delle manifestazioni in questo momento a livello di età, di etnia, di composizione sociale, insomma anche dal punto di vista economico, cosa state vedendo? Cioè, chi sta partecipando a queste manifestazioni? Allora, penso, vado io perché abbiamo seguito questa dinamica già prima. qui le manifestazioni vengono organizzate più o meno da, esclusivamente da associazioni di base. Una delle cose molto belle, secondo me, è che si mette un messaggio su Facebook o su Twitter per una manifestazione magari di 3 o 4 giorni dopo e poi arrivano 1500 persone o 2000 persone a manifestare. C'è una distinzione da fare a seconda delle zone della città. Io ho partecipato a delle manifestazioni che si sono tenute vicino a me, che è una zona mista della città, e la composizione direi che era al 70% di bianchi, al 30% di neri. Chiaramente se si partecipa a una manifestazione che avviene al sud della città, la composizione è maggioranza nera. Un sacco di persone giovani, come al solito, grazie ai giovani, il mondo è in mano ai giovani, tra i 15 e i 25 anni, però anche un sacco di persone, di quarantenni, di cinquantenni, un sacco di solidarietà, un sacco di persone che seguono il corteo con la macchina, distribuiscono volontariamente le maschere, l'acqua, gli snack, il disinfettante, perché comunque i manifestanti si riuniscono ancora in una situazione di emergenza dal Covid. Però il punto, secondo me, almeno per le manifestazioni a cui ho partecipato io, è che ci sono un sacco di bianchi, è che finalmente la popolazione bianca capisce il disagio della popolazione nera, non lo capisce a livello esistenziale. E secondo me, ho sentito diverse interviste in questi giorni, i neri anche sono esausti, secondo me in maniera giustificata, del fatto che devono ancora protestare per vivere, però finalmente la popolazione bianca li supporta, e c'è questa nuova dinamica, c'è la richiesta alla popolazione bianca di essere un alleato, di farsi carico di una richiesta di giustizia sociale, anche se non li tocca, e siccome io passo da bianco non ci tocca in prima persona. E poi forse speriamo che anche i sindacati si uniscano alle manifestazioni, in maniera tale che le manifestazioni, i sindacati, dal mio punto di vista, hanno un ruolo importante, perché hanno una funzione istituzionale, e se i sindacati si uniscono, magari la speranza è che la protesta diventi istituzionale. Strecca, tu che ci racconti dall'altra parte del paese, che è vasto? Più o meno qui uguale, appunto, dipendendo da dove ti trovi. Come ho detto, a sud della California ha una composizione latina molto grande, per cui nelle manifestazioni comunque ci sono tanti latini, delle comunità latine indigene, per cui mixtechi, zapotechi, maya, quindi tutto questo sottobosco, diciamo, che secondo me in Italia non si conosce molto, però che poi sono le persone che banalmente lavorano nei campi, quindi sono quelli che hanno fatto negli anni 60 le rivolte con Chavez, e questa gente qua è in piazza. Soprattutto le comunità indigene qui hanno una rete di organizzazioni molto forte, che hanno mobilitato in solidarietà alle popolazioni nere quando queste si sono sollevate. Quindi tanti indigeni sudamericani, centroamericani, tanti neri. Qui le mobilitazioni dei sindacati degli inquilini sono state fortissime, queste associazioni che sono attive da anni nel combattere appunto la grandissima percentuale di senza tetto che c'è a Los Angeles. Questa è tutta gente che ha riciclato la propria logistica in favore e in supporto di questa mobilitazione. In termini di bianchi, qui c'è una grandissima differenza, cioè il fattore dell'età è proprio un fattore che divide, proprio fa da spartiacque. Io vedo tantissimi ragazzi in manifestazione. Io sono stata in manifestazione sia a Santa Barbara, che essendo un posto bianco, ricco, quindi le manifestazioni qui sono, cioè la differenza è terribile, ragazzi. Cioè, manifestazione a Santa Barbara, la polizia si presenta con le biciclette, in una manifestazione in università a 10 chilometri di distanza la polizia durante i nostri scioperi dei dottorandi si è presentata in tenutanti sommossa con gli elicotteri da guerra. Cioè è proprio la differenza economica di classe e d'età e eccetera, è proprio una cosa che si vede a Los Angeles, nei quartieri, nelle città del nord, tipo Pasadena, posti. Gli studenti universitari sono in prima linea, si sono mobilitati tantissimo, ma gli studenti delle scuole superiori ancora di più. Per cui le nuove generazioni, cioè gente molto giovane, 16enni, 15enni, sono in prima linea, bianchi, su questa cosa. I neri chiaramente, cioè per quasi obbligati appunto dalla loro condizione di vita quotidiana. Però appunto, come anche Daniele diceva, i ragazzi si mobilitano molto e poi c'è stato tanto supporto. Qui in California la situazione con il coronavirus è stata più grave che in altri stati, a Los Angeles in particolare, per cui comunque tante di queste manifestazioni e assembramenti sono stati problematici dal punto di vista appunto della diffusione del contagio. E poi questa è una cosa su cui io mi incazzo tantissimo, mi dispiace, sembrerò molto arrabbiata, però il sindaco di Los Angeles, come rappresaglia per le manifestazioni, ha fatto chiudere i centri di test gratuito per il coronavirus, che io trovo essere una cosa di un'infamia che non ho parole per esprimerla. Penso sia una cosa che è illegale fare in zona di guerra, non capisco come possa farla contro i tuoi stessi cittadini. Però praticamente a questa parte della popolazione è stato tolto l'accesso alle cure mediche come rappresaglia per aver manifestato contro la violenza della polizia e chiesto che la polizia a Los Angeles le venisse tagliato un budget che è di 1,5 miliardi per la città, che basta. Cioè 1,5 miliardi è una quantità ridicola di soldi per una città e il suo dipartimento di polizia, che infatti ci ha comprato dei carri armati dismessi dall'Afghanistan con questi soldi. Allora, è molto interessante questo tipo, cioè, è brutale questa situazione di rappresaglia che viene attuata in alcune città. E relativamente a questa cosa, io volevo chiedervi, oltre alla composizione sociale, oltre diciamo il rumore che sta facendo tutta questa situazione, non so se sapete che ieri a Parigi c'è stata una manifestazione che si accoda a questo tipo di dimostrazioni che ci sono negli Stati Uniti, ma c'è stata anche a Londra, c'è anche una realtà di destra che cerca un attimino di alzare la testa, probabilmente sono organizzazioni particolarmente dal basso. Volevo capire, ecco, le realtà dal basso negli Stati Uniti che stanno animando questo tipo di proteste, di che colore sono, se ce ne sono, perché comunque, ecco, l'informazione che arriva qui è abbastanza parziale, quindi non si riesce a capire se è una situazione che viene dal basso o se è una lotta politica tra democratici e repubblicani, perché comunque anche Trump un pochettino sta venendo messo in discussione, relativamente ovviamente, in discussione, insomma, se negli Stati Uniti c'è un'anima dal basso, che è una cosa che qui in Europa ci appartiene particolarmente, soprattutto da qua da dove vi stiamo parlando, se c'è un'anima proprio dal basso che spinge per portare fuori alcune istanze. Guarda, il problema è veramente complesso. Anzitutto questo è un anno di elezione negli Stati Uniti, di elezione del presidente degli Stati Uniti, e Trump insomma si crogiola nella caciara, come si dice a Roma. Trump piace che ci sia un sacco di confusione, che nessuno capisca quello che si può fare o quello che succede, e poi all'interno di questa confusione delle politiche conservatrici vengono invece attuate. Comunque, al di là di tutto questo, e secondo me questa è la grande la grande difficoltà di capire gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti vengono visti forse dall'esterno, se io mi ricordo per come la vedevo io, come una situazione monolitica, mentre all'interno sono estremamente diversificati. E queste, nelle ultime 3 o 4 settimane, abbiamo visto specialmente la forza delle grassroots organizations, come si chiamano qui, cioè delle organizzazioni dal basso, delle organizzazioni sul territorio, che per anni hanno portato avanti queste battaglie e finalmente queste battaglie sono diventate visibili. E secondo me l'importanza di questo momento è che l'americano medio ha sempre considerato la partecipazione politica come la partecipazione al seggio elettorale, cioè ogni 4 anni bisogna votare per questo presidente, poi ce lo teniamo per altri 4 anni, poi tra altri 4 anni si rivede. Mentre non so se questo sia il frutto della scelta di Trump, non so se questo sia il frutto di dinamiche sociali, quello che sta succedendo adesso è che si è allargato il concetto di politica, per cui politica significa anche manifestare in piazza, politica significa anche fare un discorso serio sulla televisione nazionale, dove membri delle organizzazioni dal basso che operano in maniera capillare nelle città, cioè a Minneapolis, a Los Angeles, a Chicago, hanno finalmente l'opportunità di affacciarsi a livello nazionale e soprattutto si iniziano a fare discorsi che erano impensabili, discorsi che si fanno solo a livello regionale e quasi mai a livello nazionale, tipo, come diceva Strelka prima, togliere fondi alla polizia, se non pensare alla sicurezza in maniera completamente diversa, senza la militarizzazione della polizia, oppure togliere delle competenze alla polizia. E queste sono tutte, questi discorsi a livello nazionale non si fanno mai perché sono capillari, complicati, perché ai centristi non interessano queste dinamiche, mentre per una costellazione di eventi in cui ci troviamo a vivere adesso sono finalmente salite dal livello a livello nazionale, un discorso che si può fare apertamente. Io mi trovo sì nella stessa situazione a Los Angeles, appunto queste mobilitazioni sono nate dal basso. Io penso che in Italia, vabbè, probabilmente tante di queste associazioni, gruppi informali non li avrete mai sentiti nominare, mi auguro che abbiate almeno sentito nominare Black Lives Matter, penso di sì. Però appunto, come dicevo prima, le associazioni di inquilini lavorano da anni sul territorio, i gruppi neri, poi adesso Black Lives Matter è quello più conosciuto, però i gruppi di appunto attivisti neri contro il carcere a Los Angeles fanno tanto, sono molto attivi, i gruppi queer, i gruppi di donne nere che contestano anche all'interno del movimento il fatto che comunque le voci che vengono portate all'esterno sono sempre quelle di uomini eterosessuali, nonostante tutto, per cui c'è anche una dinamica di diciamo combattere l'eterosessismo e il patriarcato all'interno di questi stessi movimenti. Questa è tutta gente che appunto non è nata in questo momento, è nata da anni. E forse la cosa che anzi è interessante da vedere è come, appunto, come diceva Daniele, per anni, ma decenni, la politica in questo paese è stato chi vai a votare al seggio elettorale. Però ricordiamo che comunque anche il modo in cui il diritto di voto in questo paese è stato garantito è veramente molto, molto dissimile tra le comunità bianche e le comunità non bianche. Tanta di questa gente non vota, i neri non votano, gli immigrati non votano, i latinos non votano, gli indigeni non votano, i nativi americani non votano, per cui secondo me anche questo discorso tra questa cosa da democratici repubblicani, cioè questa non è l'America, questo è il modo in cui i bianchi vengono rappresentati, come se a qualcuno gliene fregasse veramente qualcosa del fatto che ci sia Obama o ci sia Trump o ci sia Joe Biden o ci sia Bernie Sanders. Cioè alcune di queste persone hanno fatto del lavoro poi anche a livello di organizzazione dal basso, Bernie Sanders in particolare, però diciamo alcune di queste politiche sono totalmente inconsequenziali sulla vita di questa gente. La gente non stava meglio con Obama, per quanto forte sia stato il simbolo, la smilitarizzazione non c'è stata. Sotto Obama nelle scuole di Los Angeles la polizia ha comprato un lanciagranate per fare i controlli all'interno del quartiere di Inglewood, che è questo quartiere storico nero. Cioè io non penso che occuparsi solamente del voto o comunque della questione appunto Trump contro Biden sia un errore che viene fatto dai media generalmente, e un errore probabilmente all'estero. All'interno degli Stati Uniti è una scelta concreta quella di rappresentare questa intera questione in questo modo, per appunto togliere voce a gente che comunque già sa da anni che questo dibattito politico non li tiene in conto, non è per loro. Certo, mi viene naturale a questo punto chiedervi, perché da qui sentir parlare di commissariati che vengono chiusi, che vengono dati alle fiamme, con la polizia che lascia fare, è un'immagine estremamente poetica. Mi viene allo stesso momento da pensare che sia abbastanza strumentale. Questo refund non so se l'ho pronunciato bene, della polizia negli Stati Uniti, in realtà che cosa significa, che cosa rappresenta, cioè di che stiamo parlando? Perché è strano pensare che la polizia, che in alcune città degli Stati Uniti non ci sia la polizia, cioè che non ci sia il controllo, non lo so, è veramente strano, è molto poetico, ma è veramente strano. Quindi spiegatecelo un po' meglio, perché c'è qualcosa, indubbiamente c'è qualcosa sotto. Inizia chi vuole. Allora, secondo me bisogna capire un paio di cose. Uno è che qui si sta facendo la realtà politica, ma si sta facendo anche si sta riscrivendo forse la realtà del controllo da parte del potere esecutivo, per cui non si sa dove andrà a finire questo discorso per certi versi, e secondo me, siccome tu hai fatto appello alla poesia, questa è una cosa molto poetica e molto bella. Col fatto sicuramente in Italia vi saranno arrivate le immagini del commissariato di polizia a Minneapolis in fiamme, forse avrete anche sentito di Chaz, questa zona autonoma di circa 6 isolati che è stata inaugurata a Seattle, dove praticamente i manifestanti hanno occupato tra gli altri edifici anche e soprattutto questo commissariato di polizia, e lo vogliono trasformare in un centro sociale. Queste immagini, che potrebbero essere simboliche, però hanno anche allargato i confini del possibile e hanno reso possibile il pensiero che magari veramente si riesca a fare le cose in maniera diversa. Secondo me questo è uno dei fattori da tenere a mente: l'immaginario del possibile si è allargato, si è espanso incredibilmente nelle ultime 3 settimane. La seconda cosa da tenere in mente è che qui la polizia ha delle mansioni incredibilmente larghe. Per esempio, c'è una situazione di overdose, tu chiami il 911, il 911, e arriva l'ambulanza e la polizia. C'è un problema con il traffico, un incidente stradale, arriva la polizia. Ci sono magari casi psichiatrici e si chiama sempre la polizia, e quando arriva la polizia arriva sempre con il taser, la pistola, il manganello, e per cui una delle domande che ci si inizia a fare è: tutte queste mansioni devono essere tutte deferite al controllo della polizia, perché forse un infermiere fa un lavoro migliore nel caso di un problema di droga, oppure uno psicologo fa un lavoro migliore nel caso di episodi di schizofrenia, che ne so, oppure per il problema del traffico si possono risolvere problemi senza che ci sia questa forza armata a imporre l'ordine. Per cui questo è un altro dei discorsi che si sta facendo, ci si sta chiedendo quale di fatto debbano essere le mansioni della polizia. E poi si va da idee di completa autogestione del territorio, tipo quella di Seattle, a idee di togliere i fondi e togliere le mansioni alla polizia, tipo quanto sta succedendo a Minneapolis. E niente, questo è un po' i due elementi. Una terza cosa, scusa se mi dilungo, che vorrei dire è che finalmente c'è anche un'altra visione della società. Quando si parla di defund the police, cioè di togliere fondi alla polizia, che, come Strelka ha detto, hanno dei fondi nelle città più grandi degli Stati Uniti, immensi, si parla anche di rimettere questi soldi nelle istituzioni che fanno il bene pubblico più grande, per cui nelle scuole, negli ospedali, in tutte le istituzioni che danno accesso, specialmente alle popolazioni marginalizzate e più povere, al mainstreaming, al centro della società. Questo secondo me è il terzo fattore da considerare. Sì, collegandosi a questo, secondo me quando si fanno dei discorsi appunto del genere di defund the police, è importante capire cos'è la polizia negli Stati Uniti, che non è la polizia che abbiamo in Italia. Cioè, appunto c'è dietro un ideale di rimmaginare la società, ma diciamo il punto di partenza, cioè togliere i soldi a queste forze dell'ordine, cioè li porterebbe comunque ad essere svariati ordini di grandezza, comunque peggiori della situazione a cui siamo abituati noi in Europa, secondo me. Cioè io posso darvi questo piccolissimo aneddoto. Io ho partecipato ad uno sciopero, le dottorande di University of California sono state in sciopero 5 mesi, perché i nostri contratti fanno cagare. Comunque all'interno di questi scioperi noi abbiamo fatto una serie di cose, di cui penso la più, non lo so, illegale è stata l'occupazione del rettorato per 8 ore, cioè una cosa proprio tranquillissima. Si è scoperto 3 mesi fa che la rettrice dell'università e il nostro sindacato ha autorizzato l'uso di la polizia locale per venire insieme alla polizia dell'università a farci controlli durante queste manifestazioni, che sono accorsi in tutta la California, perché noi abbiamo svariati campus, svariate sedi in California, e che sono state usate delle tecnologie militari per sorvegliarci. Noi stiamo parlando di assembramenti di 50 persone davanti ad un palazzo, sedute per terra a fare lezioni con gli studenti, chiedendo di essere pagate di più. È una situazione in cui questa è la cosa che trovi davanti a te, schierati dietro di noi file e file di poliziotti tenuti antisommossa. In alcuni dei nostri campus, quelli con la maggiore concentrazione latina e nera, camionette blindate, roba comprata all'esercito che l'ha dismessa dopo che è tornato dall'Afghanistan. E questa è un'università, e queste sono le forze interne dell'università. Cioè il tipo di controllo che c'è qui è assolutamente insensato rispetto a poi come vive la popolazione, come quello che succede. Cioè sembra veramente alcune volte di andare in giro e sembra di stare in zona di guerra. Cioè io non ho mai visto poliziotti armati fino ai denti come li ho visti qui, gente che camminava in università con i mitra, e la situazione dove sto io è una situazione molto privilegiata. University of California, grande storia di cioè di essere molto libera, come posto è il posto dove insegna Angela Davis, per cui non sto parlando di altre università che hanno invece fama molto peggiore, però appunto Defund the Police è anche un pochettino un passaggio obbligato in un posto dove la polizia a Los Angeles prende il 50% del budget della città, che è assurdo, un budget altissimo, e un posto dove non hai gli autobus, non hai i controlli del coronavirus perché te li ha tolti il sindaco perché stai protestando, la gente muore per strada di malnutrizione, in un posto che appunto dovrebbe essere uno dei paesi più ricchi del mondo al dire delle loro statistiche. Questa è la situazione di partenza. Io appunto poi in università lavoro con le carceri e la situazione nelle carceri è anche assurda, la situazione nelle scuole superiori è assurda, di studenti che vengono perquisiti all'ingresso a scuola appunto da poliziotti che sembrano dei Rambo. Questo è il punto di partenza, e appunto si spera che questo tipo di mobilitazioni porteranno invece a una discussione appunto di qual è il ruolo della polizia nella società, ma anche di qual è il senso di avere un tipo di supporto alla polizia in termini di questa quantità di denaro che invece potrebbe essere diretta su altri progetti che aiuterebbero a appunto a creare una situazione migliore, una società migliore. Perfetto, e allora anzitutto grazie, perché sono informazioni importantissime che chiaramente dai canali mainstream arrivano molto molto molto molto edulcorate. Parlavamo dei confini del possibile, no? Che è un'immagine che da qui, da dove parliamo, dal Forte Prenestino, è molto familiare. Capire come oltrepassare i confini del possibile è una faccenda quotidiana. Allora, partendo da Seattle, dalla situazione che sta accadendo in questo momento a Seattle, che ora ditemi voi se sbaglio, è tipo una repubblica popolare, no? Cioè è una roba che qui a Roma abbiamo già visto e sperimentato, chiaramente con caratteristiche diverse. La domanda che volevo farvi, e poi vi lascio andare alla vostra giornata, perché qui ormai è sera, ma di là invece avete una giornata davanti, è questa: quali sono le differenze, qual è la differenza sostanziale tra le manifestazioni che stanno avvenendo, le dimostrazioni che stanno avvenendo in queste settimane in America? Perché non è la prima volta che c'è un omicidio da parte della polizia nei confronti di un afroamericano, però forse, almeno così arriva di qua, da quest'altra parte dell'oceano, questa volta stanno facendo più rumore. Allora, qual è la differenza rispetto alle altre volte? Cioè, forse questa è un'occasione giusta, cioè forse questa è l'occasione migliore, e soprattutto forse questa è un'occasione da non perdere. Cioè, la società americana probabilmente si sta rendendo conto che è ora di cambiare un certo sistema e un certo trattamento nei confronti della comunità afroamericana, ma è andata ben oltre questa volta questa protesta. Vi ripeto, ci sono stati casi a Parigi, ci sono stati casi a Londra, è arrivata fino in Europa. Perché, se lo è in questo momento, questa onda di protesta è differente rispetto alle altre volte, e se potete raccontarci ancora qualcosa in più rispetto soprattutto a Seattle, perché quella è una manifestazione molto importante. Cioè, ci riconosciamo un pochettino in alcune dinamiche tra Europa e Stati Uniti nell'occasione di Seattle. Allora, io non sono a Seattle è sulla costa ovest, per cui quello che so è quello che leggo e quello che sento. Comunque direi che alcune cose vanno prese in considerazione. Uno, Seattle è il posto da cui sono partite le manifestazioni negli anni 90 contro il WTO, che ci ricordiamo tutti, che poi sono arrivate anche in Italia e che poi hanno culminato a Genova, no? E questa è la prima cosa da tenere a mente, per cui Seattle è preparata da questo punto di vista, è preparata a essere più libertaria e autogestiva. La seconda cosa da tenere in considerazione è il livello macroscopico, dove comunque è un anno di elezioni e comunque non so, forse c'è anche una speranza da parte dei democratici che Trump finisca per darsi la proverbiale zappa sui piedi con queste proteste. Trump è stato direttamente coinvolto nell'esperimento di Chaz di Seattle. La terza cosa è che io sarei meno teoretico e più sperimentale quando si arriva ai cambiamenti sociali. I cambiamenti sociali avvengono anche perché la conformazione delle dinamiche di potere, dove più gruppi hanno poteri, si presenta in maniera tale che può essere sfruttata per avanzare delle richieste sociali, e questa secondo me è una di quelle occasioni, e magari a Seattle la stanno prendendo seriamente, dove il sindaco di Seattle difende i manifestanti dicendo che non fanno niente di male, che stanno semplicemente espletando il loro primo emendamento, dove dice a Trump che è incostituzionale mandare l'esercito se lui volesse, e dove la gente inizia a vivere una politica all'aperto. Abbiamo vissuto per un sacco di tempo in casa, potevamo parlare solo tramite il computer o lo smartphone, e adesso invece a Seattle magari si fa che ne so, l'orto comune o il dibattito in piazza ogni giorno, che dal Forte Prenestino non sembrano cose nuove, dove però qui non sono delle realtà così esplicite, o almeno non lo sono quanto sono esplicite dal Forte. Secondo me questa è la cosa migliore. La cosa migliore è che, al di là di quali siano le ragioni per cui si possa vedere sugli schermi nazionali e sui media nazionali una realtà come Seattle, è il fatto che ci sia una realtà come Seattle, punto. Sì, io sono d'accordo che Seattle è proprio anche un po' un unicum, secondo me, negli Stati Uniti. Seattle è proprio, non sembra l'America se ci metti piede. Il modo, vabbè, per alcuni versi anche un po' divertente, ridicolo, non so se voi avrete visto che forse le foto in cui c'è una statua di Lenin a Seattle, perché un tipo se l'è comprata e l'ha fatta mettere in una piazza dismessa dalla Polonia, e quindi c'è lì una statua di Lenin, però appunto così comprata da un artista, non si può rimuovere perché è proprietà privata. Però Seattle ha anche una storia di lotta nei confronti, soprattutto nata come lotta appunto per questa cosa del G8, ma anche contro la gentrificazione oggi, perché Microsoft c'ha gli headquarters a Seattle e la popolazione si è mobilitata moltissimo contro il displacement, la rimozione delle, appunto, delle classi basse, delle minoranze etniche, razziali, da quelli che sono poi diventati i quartieri dove si sono trasferiti a vivere i dipendenti di Seattle e di Microsoft. Per cui c'è anche questo tipo di mobilitazione che è partita qualche anno fa, simile a quella che c'è a San Francisco, che ha coinvolto anche tante fette della società che magari non avevano direttamente a che fare con il problema di essere appunto vittime della gentrificazione, ma che si sono mobilitate in solidarietà, e sto pensando soprattutto ai gruppi queer, che a Seattle hanno dato tanta solidarietà alle associazioni degli inquilini. E poi c'è anche un sottobosco interessante di sindacati che sono piccoli e che sono meno istituzionali, come l'International Workers of the World di IWW, che hanno anche un ramo italiano e che a Seattle hanno abbastanza iscritti anche all'interno dell'università. Nel senso di come mai adesso, come mai c'è stata questa grande mobilitazione ora, io penso sicuramente la gente è stanca, Però effettivamente cioè, queste cose succedono ogni settimana, cioè anche dopo che c'è stata la mobilitazione, comunque in mezzo alle foto di sbirri che si inginocchiano c'erano comunque quelli che aggredivano i manifestanti di colore in maniera assolutamente insensata. Perché questo particolare caso, secondo me, arriviamo anche da 3 mesi di disoccupazione per tanta di questa gente dovuta al coronavirus, dove le comunità latine e nere sono state quelle che hanno avuto il più grande numero di morti, perché come al solito sono state completamente abbandonate a se stesse e sono state obbligate a lavorare, sono stati questi lavoratori essenziali che di fatto sono i lavoratori sacrificabili. Sono stati quelli che hanno proprio portato il peso del coronavirus in termini di morti, almeno per la California, ma mi immagino tranquillamente anche nel resto degli Stati Uniti, sia in termini di morti sia in termini di disoccupazione. E secondo me questo è stato un fattore che ha portato anche, quando si è verificato l'ennesimo caso di brutalità poliziesca, ha portato a, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Parte. Allora, è meraviglioso, spero, io vi ringrazio anzitutto da parte del Forte Prenestino per questa vostra complicità e spero che queste dimostrazioni vadano avanti e che quindi ci sia ancora l'occasione per parlarci e appunto confrontarci rispetto a tutta questa situazione. Quindi direi che anzitutto grazie mille per la vostra complicità e detto questo vi saluterei, a meno che voi non abbiate ancora qualcosa da aggiungere, non lo so se ci siamo persi qualcosa e c'è un punto che a noi è sfuggito e che voi volete raccontarci. Hanno dato fuoco anche alla sede del sindacato della polizia. Devo dire che comunque i sindacati negli Stati Uniti non hanno tantissima forza, a parte quello della polizia e dei secondini. Gli è stato dato fuoco qualche giorno fa e lo riporto. Questa è una meravigliosa immagine. Non so, Daniele, vuoi aggiungere qualcosa a questo? No, questa cosa che ha detto Strelka mi fa pensare veramente a queste dinamiche sindacali che sono estremamente diverse da quelle a cui si è abituati in Italia e sono più complicate. Appunto questo sindacato della polizia riesce a influenzare delle politiche che poi permettono anche un uso eccessivo della forza e si sta pensando appunto di prendere di petto il sindacato della polizia a livello istituzionale. Non lo so, tenetevi aggiornati perché le cose che succedono qui sono interessanti e magari si cambia davvero questa volta. Spero vivamente che sia così e quindi temo che continueremo a rompervi le scatole per appunto farci raccontare questo cambiamento che speriamo una volta tanto sia dirompente. Ecco. Allora io non mi rimane che ringraziarvi, salutarvi, vi mandiamo tutti quanti insieme un grandioso abbraccio da parte del Forte Prenestino per questa vostra disponibilità e per queste vostre testimonianze. E temo, soprattutto per voi, che ci sentiremo ancora. Ciao, fate festa. Dai. Un abbraccio. Dai. Ciao. Dai forte. Dai forte. Va bene, ci accingiamo quindi a chiudere questa diretta di Radio Forte che si è dilungata ben di più di quanto previsto e Abbiamo preparato varie corrispondenze con Firenze, Bologna, Radio Wombat, Radio Spore e con Napoli, però diciamo per, sia per motivi di tempo sia per assenza degli interlocutori parleremo solo del Festival Bassaidai che si è tenuto a Napoli mercoledì scorso e poi oggi, ieri e oggi. Questo festival è dedicato appunto a un compagno, Lorenzo, che antifascista, che 5 anni fa ormai ha deciso di andar via e che si è sempre battuto per gli oppressi, e quindi il Festival Bassaidai, che si tiene ormai da 5 anni, è dedicato alle persone oppresse tutte, sia chi decide di andare via, sia chi invece è stato, invece ad esempio è vittima degli abusi in divisa, sia tutti coloro che soffrono il capitalismo, la società, la nostra società. E quest'anno anche il Festival Bassaidai ha dovuto cambiare un po' forma per adeguarsi al Covid, le distanze che sono state in parte imposte e che hanno accentuato la condizione di sofferenza, dell'oppressione di molti e molti i più deboli soprattutto. Quindi avremmo avuto una telefonata ora, però non c'è una telefonata, ci sta un messaggio vocale che ascoltiamo. Buonasera a tutti e a tutti quelli che sono in ascolto, e insomma ringraziamo i ragazzi della radio per averci permesso insomma questo spazio per poter parlare del Bassaidai. Il Bassaidai è un festival che da ormai 5 anni teniamo per ricordare Lorenzo, un compagno che è venuto a mancare 5 anni fa. Ovviamente quest'anno diciamo la peculiarità del Bassaidai è stata quella di comunque uscire da un momento di crisi, no? Di isolamento sociale ma anche umano, che è durato più di 2 mesi, insomma, nei quali le vite precarie di ognuno di noi sono state messe chiaramente alla prova per molte ragioni. E per noi diciamo l'avvicinarsi del Bassaidai significa avere, sentire e anche diciamo rispondere, no, ad un bisogno di collettività e vicinanza che chiaramente molte persone in questi 2 mesi non hanno potuto avere per varie restrizioni di tipo sociale eccetera per colpa del Covid, insomma. Quindi i rapporti umani, i rapporti sociali erano comunque limitati all'automaticismo di dispositivi elettronici, da una chat di messaggistica, e quindi diciamo il contatto. Si è ridotto totalmente a quello che era parlarsi dietro un telefonino. Per noi diciamo era di primaria importanza di costruire, no, l'idea che abbiamo del Bassaidai e di come veniva strutturato per riprendere in mano la collettività, la socialità, insomma stare insieme, condividere delle emozioni, dei dolori anche con le persone a cui teniamo di più, e soprattutto un momento in cui poter tenere fuori la violenza del tempo che possa essere diciamo un elemento che valorizza e trasforma ciò che viviamo, no? Ciò che viviamo ogni giorno. Chiaramente diciamo negli ultimi anni la costruzione del Bassaidai riusciva insomma sia nel momento in cui ciò che ci spingeva a farlo era appunto ricordare Lorenzo, ma soprattutto la voglia che tutte le persone che ci circondano, che vengono da fuori, che insomma fanno odissee lunghissime per venirci insomma a dare una mano, era proprio il fatto di costruirle con loro che ci desse questa forza immensa. E nonostante diciamo tutte le problematicità che la quarantena, insomma la pandemia mondiale abbia portato, siamo riusciti comunque a ricostruire, a ricreare un modo di vivere. sede del Bastionai di ricordo di Lorenzo, che comunque rispecchiasse quello che volevamo, insomma, che questo Bastionai fosse. Diciamo, chiaramente ci siamo dovuti rimodellare a delle normative, tra virgolette, che non nuocessero nessuno, di conseguenza abbiamo limitato chiaramente le iniziative aperte al pubblico con mezzi che poi sono diciamo riscoperti come mezzi anche diciamo simpatici, tra virgolette, ma soprattutto diciamo di convivialità, come il momento della radio che abbiamo tenuto mercoledì scorso, in cui abbiamo cercato insomma di tra un vinile e un altro di raccontare che significasse per noi Bastionai, che significasse per noi ricordare Lorenzo e trasmutare, no, quello che è il soltanto il ricordo, una parola, in qualcosa che ci facesse vivere ancora un po' tutti. Abbiamo cercato comunque di tra virgolette trasformare quello che è poi il distanziamento sociale e umano, dei rapporti che, come dicevo prima, sono stati mediati un po' da dispositivi elettronici eccetera, e abbiamo provato a venire fuori da quello che ci stava accadendo, da quello che accadeva attorno a noi, semplicemente con un altro metodo che fosse anche semplicemente quello di poter raccontare per noi cos'è stato, provare a raccontare come l'avrebbe affrontato Lorenzo e così via. E ieri insomma poi abbiamo continuato con il festival, con la consueta torciata che ogni anno dedichiamo in una delle piazze di Napoli, insomma, per ricordare Lorenzo, ed è comunque un momento per stare insieme, è comunque un momento insomma per poter condividere un po' il dolore, ma soprattutto anche la rabbia di una società che molti, diciamo, molte non sono riuscita ad affrontare. E stamattina invece abbiamo piantato un albero che insomma per noi significa molto, perché come diciamo come è riportato insomma come tra virgolette motto, ma non è un motto, diciamo, il senso di questo Bastionai è chiaramente pensare a Lorenzo, e significa pensare alle radici. E chiaramente in tutta una serie di azioni, di momenti che siamo riusciti a costruire assieme, portavamo chiaramente anche i nomi, no, delle vite che sono state strappate via da questo mondo per una mano fascista, per una mano nazista, per una mano capitalista, una mano sessista. In questi ultimi mesi mi viene da pensare chiaramente a George Floyd, ai detenuti nelle carceri italiane ed estere che sono morti durante la quarantena, durante le rivolte che ci sono state appunto durante il Covid, a Dax, a Renato, a Carlo, a Clemon, a Urso, a tutti gli operai e le operaie che sono morti sotto la mano, diciamo, di tutte le multinazionali e le aziende che hanno continuato, hanno perpetrato, diciamo, il lavoro, e anche quando le possibilità di poter dare una sicurezza che fosse, diciamo, banalmente anche umana, erano pari a zero. E parlavamo anche di Davide Bifolco e Ugo, parlavamo di tutti coloro che sono rimasti senza lavoro, e di tutti i popoli oppressi, le donne oppresse, insomma. Abbiamo cercato di portare, come ogni Bastionai, i nomi e quantomeno le esistenze che sono state strappate via per mano di ciò che combattiamo, nel nostro unico nemico. Quindi nulla, per noi Bastionai significa questo, Bastionai significa riuscire comunque in ogni caso a respirare al di fuori di ciò che ci opprime e a battere sempre e comunque la fortezza che è attorno a noi e dentro di noi. E quindi, col proposito di abbattere la fortezza che è dentro di noi, ma anche insomma ricordando Lorenzo, chiudiamo questa diretta di Radio Forte e ci diamo appuntamento alla prossima diretta. Continua ora il palinsesto, che prevede ora il set di benessere.